lei è un insultatore che crea dei problemi alle persone che sono povere. Si vergogna, si dimetta dalla posizione che ha. Io non so come fare a tenerla lì. Ecco, ripeto, anche questo è vero, ha ragione Libano, un insultatore. Ma roba, io esprimo le mie idee. Guardi, le do un consiglio, dato che io non sono d'accordo con lei, mi chiuda la, no, la comunicazione, perché no. Lei è anche un personaggio del genere, sì, che quando uno fa girare le palle chiude la comunicazione. Si vergogni. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Che squallore ieri sera da Formigli, tutti contro quel poveraccio di Casa Pound, e Parenzo a fare il grilletto parlante e spara contro la Croce Rossa. Miserabile! Che bastardo Parenzo coglione, hai tutto insegnato quel teatrino di andare là, ma non ha avuto il coraggio di andarci per costringere lui a andare lì da voi di La Sette per fargli il processo. Ma vi ha smerdato, la gente vede che eravate in 10 contro lui. Io voterò Casa Pound, coglione, straminchione, voterò Casa Pound, Casa Pound, Casa Pound, Casa Pound, butterò Casa Pound, Casa Pound, Casa Pound, Casa Pound, butterò Casa Pound. Non ho sentito bene. Sti cazzi. Cioè voi mi dovete spiegare una cosa, no? Ma questo Abdallah Bagabakeggi là, come cazzo si chiama lui? Ma non te ne un cazzo fa dalla mattina alla sera? Che ogni due o tre Parenzo dice mi ha contattato Abdallah stu cazzo che dice. Mamma mia, sta sempre con sto cellulare a mano, questo Abdallah Spaccino. Pare, certo che fai cagà proprio, fai arrivarti alla ginocchia, quanto cazzo sei brutto all'aria che tiro. Un abbraccio, caro Parenzo. La maggioranza silenziosa dei miei coglioni. Un abbraccio di nuovo. Giuseppe, ciao, sono Giovanni di Reggio Calabria. Siamo qui, caro Parenzo! Ci siamo! Che ambientino, ci siamo, ragazzi! Ci siamo. Che ambientino, ragazzi, io non so se è vero o no, ho letto da qualche parte durante questo pomeriggio un po' agitato, e che il fratello, credo, di Nanni Moretti, che io non sapevo nemmeno avesse professore. Un fratello, professore a Berkeley, dove in America, Berkeley, no? Berkeley, esatto. E sarebbe stato accusato da più persone di essere un molestatore. Ripeto, non lo so cosa succederà, cosa non succederà. E spesso c'è una caccia alle streghe per questa cosa qua. Però ti posso dire una cosa, ti posso dire una cosa. Al di là veramente di questa vicenda del fratello di Nanni Moretti, perché non lo conosco e non so le vicende. No, si dava la corbelleria politicamente scorretta. No, ma io sentiamo, un po' sto sentiamo. Godendo sto ma, perché, ma lo sai perché sto godendo? L'ho già detto, ma lo ripeto. E questa notizia, ancora una volta sottolineo, non so se è vero, non è vero, eccetera. Perché una marea di gente del mondo dello spettacolo e i buonisti e gente che buonisti? Aspetta, gente che ha sparato a zero su Trump, porco sessista e violentatore di donne, e quello che metteva le mani dentro la figa delle donne, ti ricordi? Era solo un'intervista, tra l'altro, nessuna accusa precisa, eccetera. Gente che accusava Berlusconi delle peggiori nefandezze, di essere uno stupratore, eccetera, eccetera. Nessuna accusa mai per stupro, al limite per prostituzione minorile, assolto, eccetera, eccetera. Tutta questa gente qua della sinistra del cinema, tutti o comunque buona parte di queste persone o sapevano, e alcuni di questi qua le mani sul culo le mettevano sinistra? Su, ma come la sinistra, per intenderci, per intenderci, le mettevano le mani sul culo senza che le donne volessero. Ragazzi, abbiamo vinto. su questo punto qua. Abbiamo vinto. Voi di destra, no, non ho capito. Abbiamo chi? Abbiamo vinto. Ti sei smascherato. Abbiamo vinto. Lapsus. Lapsus incredibile. Abbiamo chi? Chi ha vinto? Abbiamo vinto. Un maiale. Noi. Un maiale di destra, di sinistra e di centro. Amico, ma cosa mio, c'entra? Il mondo dorato di Hollywood, del cinema italiano, ma che spara a zero dire? Su Berlusconi e Trump, porconi, si rivela per quello che è, ipocrita. E spesso anche maniaco, capito? Maniaco, vero? Ma non vero. C'entra la sinistra. Ma quanto sei superficiale, ma che c'entra la sinistra? A questo proposito, ecco, cosa sentiamo? Per avvalorare questa tesi, sentiamo? Sentiamo Donato da Varese. Come per avvalorare? È un coglione. Cosa vuol dire? Per avvalorare questa tesi, cosa? Allora, no, sentiamo Morelli su un'altra cosa. Lo psicologo Morelli, la psichiatra, psicologo, che cazzo è, non lo so. Psichiatra. Molte ragazze da giovane pensano che con la bellezza possano ottenere dei vantaggi. Qui ribalta la situazione, signor Morelli, vai. Molte ragazze, soprattutto quando sono giovani, pensano che andandoci a letto una volta otterranno dei vantaggi nella loro carriera. E quindi si stanno prostituendo, perché chiamiamo le cose col loro nome. Però non sanno che uomini come questi non vengono a letto con te perché gli piace il piacere sessuale, il desiderio, l'eros. Vengo a letto con te per dominarti. Allora, torniamo a Ostia, caro Parenzo, torniamo a Ostia. Io voglio farvi ascoltare la drammatica telefonata che abbiamo ricevuto ieri sera, drammatica, insomma. Sì, oggi c'è stata la manifestazione dei giornalisti che sono voluti andare lì per cose inutili, molto totalmente bello, molto bello, inutile, riprendersi totalmente. La città, riprendersi inutile. La partecipazione spontanea, inutile. Civile, bella, inutile. In piazza, inutile, inutile. Molto bella totalmente quella manifestazione inutile. Organizzata in particolare frega. Da Dino Giarrusso, altri amici che hanno inutile voluto. Totalmente. Allora, totalmente inutile. Posso dirti una cosa? I criminali devono avere paura ad uscire di casa. Bisogna riappropriarsi degli spazi pubblici. Invece è molto bello. Dirti una cosa? Dovresti essere d'accordo anche tu che per un giorno la gente non ha paura a uscire di casa perché ci sono brave persone per strada e non dei criminali. Posso dirti la verità? Queste manifestazioni come le fiaccolate, scusami, mi ci puliscono i coglioni. Grazie alle fiaccolate, alle manifestazioni, alcuni pezzi della Sicilia sono ritornate nelle mani dei cittadini. Sicuro, grazie alle manifestazioni. Il racket, come lo hai combattuto? Grazie alle manifestazioni. Addio Pizzo. Vabbè. Certo. Allora fermo là. Allora, no, ti dico una cosa. Vabbè, posso dirti che la vicenda di Spada, l'arresto di Spada, lo trovo. Ci ho riflettuto molto. Lo trovo esagerato. Adesso non si dovrebbe dire, no? Perché tutti arriva. E improvvisamente è garantista. No, non è garantismo. Io non sto dicendo Spada libero. Non sto dicendo Spada. No. No, hai detto che è eccessivo. Ho detto che lo trovo, rispetto, lo trovo un provvedimento che è stato preso. Ci ho riflettuto molto, ho letto un sacco di cose. È un provvedimento che è stato preso sull'onda dell'opinione pubblica e soprattutto sulla un arresto dettato dai giornalisti. Dal mondo del giornalismo e dal mondo dei media. Questo io mi auguro che qualche PM ti indaghi perché stai diffamando la magistratura. No. Cioè immaginare che il pubblico ministero sull'onda delle richieste popolari e di Twitter decida a 48 ore l'aggravante mafiosa. A 48 hanno aspettato con il referto del medico, hanno verificato però, hanno contestato quel reato. Guarda, no, non bisogna per forza, non bisogna hanno avere gli occhi. Hanno contestato quel reato. Ma non bisogna avere i paraocchi però. Hanno fatto molto bene, hanno contestato il reato. Ma che c'è? Ma lascia per perdere il formalismo. Lascia perdere il formalismo. Si inventano quello che vogliono. Se uno vuole essere. Ma si inventano. Ma dai, come su, si dai. Cosa vuol dire si inventano? Ma io non ho nulla a favore cosa di loro. Io figurati se ho qualcosa a favore. I magistrati hanno forzato il codice. Ma non lo so dicendo. Se è un'interpretazione. Ho detto l'interpretazione. Ma non l'interpretazione. Hanno forzato il codice. Hanno fatto bene. Hai ragione tu. Hanno fatto bene. Perché tanto uno se non dice. No, ma dillo, se non dice com'è. Io penso. Hanno forzato il codice. Sull'onda dell'opinione pubblica. Sì, quello può essere. Dove l'hai detto tu? Contato. Ho detto, benissimo. Ma sicuramente l'indignazione dell'opinione pubblica ha contato. Tanto non fai parlare in questo caso. Non fai parlare. Allora, questo signore qua è stato arrestato perché l'hanno voluto i giornalisti. Un'altra testata non sarebbe stato arrestato. Punto e basta. Quello è abbastanza chiaro. Dai, se avesse dato la testata a un passante, non sarebbe stato arrestato. Lo vogliamo dire o no? Poi non faccio la battaglia a spada libero. Non me ne frega niente. È un criminale. L'ho detto più volte. È un criminale per altre cose e anche per questo. Ma l'hanno arrestato solo perché ha dato la testata a un giornalista. Lo vogliamo perché dire il contesto o no? Nel quale hanno evidentemente verificato che il contesto nel quale ha agito e le modalità sono un contesto mafioso, bene, da metodo mafioso. Bene, allora, se sei ma perché lo cosa? Hanno contestato? Assolutamente d'accordissimo. Ma perché lo hanno contestato il metodo mafioso? Lo sai perché o no? Ma non lo so, ma non mi interessa. È chiaro che l'hanno arrestato solo perché spara. Ma perché il metodo mafioso gli hanno dato? Perché? Perché gliel'hanno dato il metodo mafioso? Perché secondo te? Voce di ostia, voce di ostia. Voce di ostia, voce di ostia. Come dice Mussolini, l'Italia agli italiani. Io sto lavoravo da quando sono arrivati loro, mi hanno fatto chiudere la ditta. Io sono un ragazzino di 6 anni, facevo i controsoffitti, facevo. Io mettevo una cifra, loro mettevano ancora di meno, la gente chiamava loro poi. Da quanto è che non lavori? So la bellezza di 9 anni. Ha fatto bene? Ha fatto bene? Sì. Cioè lei dice che ha fatto bene? Secondo me sì. Cioè la violenza è giustificata? Mi abito così, poi magari mi potresti dire pure sei ignorante. Però dai, e se vede che è capitato lui al ciccio? Quindi un'aggressione così secondo lei è giustificata? Per me sì. Allora, è evidente che questi sono degli imbecilli, no? Perché la testata non è giustificata. Io dico un'altra cosa, giustamente mi scrive Sgarbi e mi dice: bravo, cosa c'entra la mafia con la testata? Lo hanno voluto arrestare, non faccio la battaglia a spada libero, non me ne frega niente, è un criminale, va benissimo che sia in galera, ma lo vogliamo dire, se siamo onesti intellettualmente, che questo arresto è un arresto voluto sull'onda dell'opinione pubblica, soprattutto perché quello che gli hanno dato la testata è un giornalista? Lo vogliamo dire, se siamo onesti intellettualmente, o no? O dobbiamo sempre stare dietro come pecoroni a quello che dice la maggior parte delle persone? Non no, la maggior parte. E lo diciamo. Io sono no. d'accordo all'escamotage che hanno anche trovato tu, per lo dici contestargli. Anche tu. Ti ho appena detto che visto il contesto, sto spiegando, questo è il metodo mafioso, che visto il contesto nel quale questo spada ha agito, dai, il contesto è un contesto che conosciamo di criminalità e di mafia, il contesto non di quella c'entra città. Niente con la testata, e quindi, dai, se avesse dato la testata a un passante non l'avrebbero arrestato, dai, lo sai benissimo, fermalo. Ma no, perché sarebbe stata una rissa non comune, ma che c'entra, dai, su. Ma quella non è una rissa comune. Fermo, che mamma mia, ma perché non, perché devi essere sempre nella, ma ti sto spiegando l'onda. Nell'onda di tutti, perché? Dai. Ma qual è tutti? Adesso comincerà. Ma guarda che stai sostenendo una cosa che è abbastanza popolare, ma sai, che in giro popolare, assolutamente no. Assolutamente la la cosa popolare è che la testata mi sia giustificata. Mi pare che a Ostia la pensino come te. No, mi pare no. che a Ostia la pensino come te. Vedi mi pare. Vedi che sei, quindi vedo sei che è molto criminale, popolare. Sei un criminale, stai dicendo un'altra cosa. Io non giustifico la testata come hanno fatto quelli che hai sentito adesso. Non sto giustificando questo. No, sei un criminale. Ho detto sei un criminale. Mi pare che il contesto, tu non l'hai capito quello mafioso. Fermo, ma non c'entra niente la mafia con la testata. Fermo. Stufe e caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Vi presenta la Zanzara. Zanzarosi, giornata difficile, chiamate all'824-0024 o whatsappate il 393-7171-701. Scoprirete che potrebbe anche andare peggio. Naturalmente. Cioè, tu sei il paladino della libertà, tu sei quello che si può dire tutto, ognuno è libero di pensare, di essere criticato, di avere la sua filosofia. Ma come cazzo è che questo qua può essere libero di rompere i coglioni a una persona qualunque? Qualunque essa sia, può anche essere un mafioso, che vada alla magistratura. Ma non mi fai la domanda per 2 ore di fila, la stessa domanda, se perché stai alludendo a qualcosa e stai facendo delle illazioni attraverso velate da domande. Io non ho mai visto Montanelli fare così, o Biagi. Non l'ho mai visto, sono questi giornaluncoli da scoop che alla fine cosa fanno? Fanno incazzare la persona e quell'altro un coglione e tira una testata. È questo che vuol dire te la sei meritata. Minchia, ma non capite, cazzo. Allora, ovviamente questo è un imbecille, vedi che sono totalmente in disaccordo con quello che dice questo, figuriamoci, è 2 giorni che dico l'esatto contrario, che uno può andare a fare tutte le domande che vuole. Tra l'altro anche ieri noi ci chiedevamo, scusami, ieri noi ci chiedevamo come mai ancora la polizia non era, il carabinieri, la polizia non era intervenuta. Abbiamo scoperto che sono passate 48 ore e tutti si chiedevano, tu compreso, ma come mai non lo arresti? Ma scusami, ma hai detto, hai convenuto detto anche tu con me, pensiero, perché non se lo bevono ma subito? Ma scusami, ma io mica sono un cretino. bene. No, io ho detto il primo pensiero. E perché non se lo sono bevuto subito? Perché lui non ha denunciato immediatamente, altrimenti se lo sarebbero. Non ti attaccare alle cose formali, David. Ma perché sei così intelligente da non attaccare al formalismo? Le carte. Scusa, come tu hai fatto un'accusa, hai detto. È pazzesco, guarda. Ma non le carte, il perché avvengono le cose, mi devo chiedere. Amico mio, tu hai dato una spiegazione. Lo hanno arrestato sull'onda dell'opinione pubblica, lo vogliamo dire? Sull'onda del fatto che hanno formalizzato un capo d'accusa. Non ce la fai, non ce la fai, non ci arrivi. Se il giornalista avesse denunciato subito anziché aspettare. Ma non fai l'avvocato, guarda le cose al di là delle carte degli avvocati, cazzo. Ma dobbiamo capire però perché è avvenuta una cosa. Ma non me ne frega niente, leggesse i giornali, che cazzo me ne frega. Ma se tu hai espresso un'opinione che però non è fondata sul dato di fatto. Ti faccio sentire Boccacci, così ti scaldi su un'altra cosa. Boccacci, Piazza Pulita. No, l'ho sentito già ieri, me ne vado. Boccacci mi fa vomitare, non voglio ascoltare quello schifo. L'hanno fatto sentire a Piazza Pulita, non lo posso ancora far sentire io. Non voglio risentire Boccacci, mi fa vomitare, mi fa schifo Boccacci. È strano che sia ancora in libertà, non voglio sentirlo Boccacci. Ieri non l'ho detto con questa foga. Io ora mi alzo e vado via, mi avvisate, mi telefonate quando quello ha finito di vomitare. Io non ascolto chi vomita, non guardo chi vomita. Ho capito, amico mio, è un negazionista, è un fascista negazionista. Mi fa schifo, mi telefonate, ieri non ti sei alzato, Non sapevo, non mi sono alzato, oggi appunto. Non voglio risentirlo ancora. Ma lo fai sentire gli ascoltatori della Zanzara? Lo fai sentire gli ascoltatori della Zanzara? Mi fa vomitare Boccacci. Dai, allora dice che, ripartiamo, allora, Diario di Anna Frank è una farsa, La Shoah è una farsa, Auschwitz è un set cinematografico, allora, vuoi che ti dica una cosa? È un emerito coglione, un deficiente. È un negazionista dell'olocausto. Ma di più. L'ha mandato in onda la rete dove lavori tu, non è che l'ha mandato in onda la rete. Allora, ma siamo ha fatto chiari. Benissimo, ti sto dicendo che io non voglio riascoltarlo. Tappa di l'orecchio, guarda, fai una cosa. Ho detto, vado via, mi telefonate tra due minuti quando quello ha finito di vomitare. Non voglio vedere uno che va in gabinetto. Quello quando parla va in gabinetto. Senti. Quindi io non voglio sentire. Metti tappa di l'orecchio, fai una cosa, tappa di l'orecchio, tappa di. Bravo. Che ne pensa di Anna Frank? È una farsa, adesso sta venendo fuori. È una farsa? Una farsa. Il libro, il diario di Anna Frank è una farsa. Anna Frank lo scrive con la penna a biro, ma la penna a bic esce nel 50. Anche la Shoah è un falso storico. I 6 milioni di morti che loro dicono di aver avuto, gli ebrei, è una cosa inesistente. Le camere a gas c'erano. Le camere a gas. E chi ci andava dentro queste camere a gas? Le camere a gas ci andavano dentro anche i soldati tedeschi per levare tutti o pidocchi o diciamo parassiti. Cioè scusi, quindi erano camere di sanificazione? Sì. Lei è mai stato ad Auschwitz? No, e neanche ci vado. È come se vado su un set cinematografico. Mariano da Vicenza, vai Mariano. Buonasera a entrambi. Senti, vabbè, adesso che ho sentito questo, io gli consiglierei di andare all'Imperial War Museum, dove ci sono le lampade fatte con la pelle ma degli ebrei. Ma questo è un imbecille, ma è evidente che è un imbecille. Criminale. Io sono a favore. Ti posso dire una cosa, David? Io sono talmente sicuro di quello che penso su Auschwitz e sull'Olocausto che mi posso permettere, credo che la democrazia si possa permettere pure che uno dica queste cose qua. Ma io c'è il problema del fatto di quelli che non sanno. Però vedi la differenza quale? Quelli pensano che questa sia un'opinione. Ma che non vale è un'opinione, quanto quella è un di uno falso, storico. È un falso, punto. Appunto, questo Mariano, però vai. È il problema. Mariano. Questo è il problema. Allora, io sono stato uno studente all'Università di Verona dove insegnava il professor Franco Moretti. Sì. Come no, E ti garantisco, poi insomma una mia carissima amica ha fatto la tesi con lui, letteratura comparata, se c'era una persona corretta ed educata era proprio lui. Però amico mio, io non lo so cosa è successo perché ci sono delle accuse da parte di più persone, sembra naturalmente. Guarda, non è che la testimonianza della tua amica significa... No. Allora, che vuol dire? Io ti posso dire che ci ho studiato 4 anni, insomma abbiamo frequentato... Ma questo non vuol dire nulla, non guarda vuol dire. Che le chiacchiere, insomma... No, ma io ripeto, non sono a favore della caccia alle streghe, le cose vanno provate, assolutamente. Dunque io, figuriamoci, io stavo dicendo un'altra cosa, che ho detto, che il mondo dorato e spesso buonista, di sinistra, del cinema, di Hollywood, anche antitrampiano, non diciamo di sinistra Hollywood, ma diciamo antitrampiano, no? Democratico, eccetera. Sì, che ha definito e raffigurato, fotografato Trump e in Italia Berlusconi come un porco, adesso viene accusato, alcuni esponenti importanti di quel mondo vengono accusati delle stesse cose. E questo... al di là del, dei casi singoli, un po' mi fa godere, devo dire la verità. Ma questo è un paese di sepolcri, mi fa godere. Godo come un pazzo davanti a queste cose. Registi italiani che hanno sputato merda su Berlusconi definendolo un porco, un maniaco sessuale, che hanno fatto le stesse cose, se non peggio, dietro, comunque i loro amici le hanno fatte, e loro magari sapevano, e a New York, a Wall, sapevano tutto di tutti, e attaccavano Trump perché era un porco. Vi dovete vergognare. Ciao, a dopo. Chiedo scusa, pubblicità. Il segnale orario vi è offerto da Logica, spazio, tempo, Modul Block, l'evoluzione del magazzino. Stufe e caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Vi presenta La Zanzara. Imbecille, la fregna, Ciaro, vieni qua. Ma chi è Manuel? Chi sono? Manuel? E che te sei cambiato pure nome? Ma farso! A te se ti sta zitta te gonfia tutta. Sono divorziato dopo 17 anni e volevo fare un viaggio a buttare soldi. Casino e puttane, questa era la mia... E hai scelto Sofia? Ho scelto Sofia, che non si paga un cazzo, ok? A cadere sappiamo come si dice. Come si dice? Cava può sfugare. Vai giù, se volete parlare al telefono con la Zanzara da pallotto 0024 0024 oppure se volete mandare un faccio i miei messaggi coppa WhatsApp 393 71 71 701. Cruciani, cazzo, il prete di Bologna c'ha 100.000 ragioni, ha mandato a fanculo il politically correct, ha detto chiaramente come stanno le cose. Se sei in giro a far la stronza strafatta a 17 anni e poi vai via con un marocchino e poi non puoi incazzarti. Bravo il prete. Oh, adesso passiamo agli ascoltatori, però sulla storia di Bologna e del prete io veramente sono sgomento, perché c'è tantissima gente, compreso il direttore del giornale Sallusti, caro Parenzo, il quale fa l'elogio del buon senso del prete. Certo, abbiamo scritto cose normali, no? Questa ragazza è chiaramente una troia, e noi abbiamo. Abbiamo una cosa normale, mi pare evidente, no? Questa ragazza è. Solo una perché è andata col magrebino, scusa. Ma mi pare evidente, cercava la nerchia nera, come lo vuoi chiamare? È normale. Di che colore ha il pisello, il negro? Ce l'ha, nero, no? Mi pare una cosa normale. Io non capisco perché la sinistra si scandalizza così tanto per cose del giornale che noi diciamo normalmente, ma con una tranquillità, senza alzare la questa voce. Era un'ubriacona. A questa qui, ubriacona, sgualdrina, probabilmente anche faceva delle porcellate con altri uomini, anche probabilmente delle donne. Votava probabilmente Pisapia, perché in passato ha detto che votava. Sì, però sosteneva la coalizione arancione, o mi ricordo come, di Pisapia. Ha detto che voterà anche Renzi. C'è tutta la sinistra ha votato questa, famiglia è chiaramente di sinistra. E gli piaceva il negro, cioè. Mi pare, io non capisco lo scandalo, cioè mi pare normale quello che diciamo noi. Noi del giornale raccontiamo dei fatti normali, cioè dov'è lo scandalo? È una ragazza di sinistra, troia, che si è, mi pare, dov'è il, tutti si sono indignati. Si è accoppiata con un negro, cioè mi pare evidente, normale. Beh, veramente, no? È stata stuprata comunque, vabbè. Lo dite voi, ecco, razzisti, poi ci diranno che siamo razzisti, siete voi dei razzisti evidentemente, no? Comunque la cosa incredibile, cosa che incredibile. Mi sorprende, incredibile, mi sorprende che molte persone prendono le parti del prete dicendo che ha usato il buon senso, perché una ragazza non deve essere imprudente. Ma questo è un paese impazzito. No, ma certamente è così. No, ma mi hanno accusato, tu stai diventando di sinistra. Ragazzi, è evidente che quella ragazza avrà commesso anche delle imprudenze, ma qui non si sta discutendo di questo, del fatto che ci sono dei pericoli, che probabilmente doveva essere più, chi se ne frega, quelli sono cazzi suoi e della famiglia. Il problema è che c'è un prete a Bologna che dice che io non ho, che non prova nessun tipo di pietà per quello che è successo a questa ragazza. È un prete, non è Giuseppe Cruciani che se ne sbatte i coglioni di quello che è successo a Bologna, non è David Parenzo che se ne sbatte un po' meno, però alla fine se ne sbatte pure lui. Cioè, questo è il punto fondamentale. Dai, su. Il prete ieri sera. Poi, tra l'altro, il prete ieri sera si pente, intervistato da noi, si pente. E però come se avesse avuto una specie di... come se avesse una doppia personalità. Senti. Rimane sconcerto, provo pietà per questa ragazza, certo che provo pietà, chi è che non proverebbe pietà? Ho sbagliato i modi, i termini, tutto nel postare quella cosa. Qual era il mio obiettivo? Colpire la cultura dello sballo. Perché l'ha scritto? Perché stavo cercando di attaccare la cultura dello sballo. E quello d'accordo, uno può anche attaccare la cultura dello sballo, va benissimo. Io so benissimo che in questo momento sono in... No, io voglio semplicemente che lei spieghi. Al vescovo, e il vescovo mi ha chiesto di non fare più interviste. No, d'accordo, Don Lorenzo, mi scusi. Pensa una cosa, me ne scrivo un'altra, oh, come se fosse... Vuol fare poi polemiche inutili, eccetera. No, qui c'è ma un è una polemica. Quello dei ragazzi giovani, se voi volete aiutare con la vostra radio ad aiutare i ragazzi a non cadere nella cultura dello sballo, bene. Aiutiamoli, se aiutiamoli. Se polemica, però. Chiudo qui. Buonasera. Aiutiamoli, no, no, Don Lorenzo, aiutiamoli, aiutiamoli. Franco da Roma, Franco. Sì, pronto, buonasera, Giuseppe, mi senti? Sì, dimmi. No, volevo riferirmi al sempre al fatto di Spada. Ha detto una cosa giusta stasera. L'hanno arrestato per il fatto che è stato troppo scappato. Ma chi sei? Il fratello De Carlo, l'altro fascista, pure lui. Vabbè. Comunque, ad ascoltare questa trasmissione, l'Italia c'ha il 90.9% di fascisti. È incredibile. Cioè, io veramente. Ma la cosa è un paese. Cioè, sembra così ad ascoltare questa trasmissione. Poi per fortuna. Comunque, prego, sì, sentiamo. C'è, l'ho detto già l'altro giorno, un appello per cortesia, qualche nazista all'ascolto. Uno l'abbiamo già Boccacci l'abbiamo certamente sentito, il signor Boccacci. Eccolo qua, educatissimo. Allora prego, no, però lei è passato di moda, sa, signor fascista? Ci servirebbe qualcosina di più, è possibile? Ma lui è mezzo grazie. Nazista, Franco, anche. No, mi pare, è nazista lei? No, io sono tutto di destra, tutto di destra. Niente, beh, allora un moderato schifoso, non ci serve più. Lei è un moderato. Sei mussoliniano però. Mussoliniano, superato. Molto mussoliniano. Che vuol dire molto mussoliniano? Non ci fa più effetto. Tu quando passi su Ponte Mussolini, bacio per terra, pare. Bacia sempre, superato. Non è ancora troppo moderato per me oggi questo. È troppo moderato. Superato. Vabbè, di più. Ci vuole di più. Dimmi. Sì, prego. Scusi, è vero, lei non parla mai. Scusi. Fantastico, il sito testa di cazzo. Ma non è galera questo, ma non è galera quello. Raffinato, è anche raffinato. Viene per i stronzi come te. Capito? Poi gira Spada, sì. Gli fanno via il gastro, perché pure la telefonata di ieri sera che ha mandato ecco il professore, sta parlando il costituzionalista. Quello sai che ti stava a spiegare, sì, professore? Quello di Casa Pound. Sì. Che tu sei ecco. Nato in genere intervengono professori della Luisa, Radio 24. Ma perché deve rompere il cazzo a me questo? Senata dei Parioli, ecco. Quello ieri sera ha fatto la spia alla francese. Ma cos'è, professore di diritto? Che ha fatto? È andata di quei parole. La spia alla francese, si dice, perché non ha le palle per denunciare una persona, da quello che ho capito io. Ma perché dovrebbe denunciarlo lui? Scusa, non ho capito. Beh, perché ha fatto quelle dichiarazioni per radio? Chi? Perché l'ha fatta? Chi? Quelle dichiarazioni per radio? Per tossico. Quello che dice che se va a comprare un grammo di eroina. Stefano, ho capito, di Stefano io, scusa Stefano. Capito, no, quelle dichiarazioni, non capito, perché... questo con la capocciata gira via il gas, lo vorrò Cristo. Ma no, ha sbagliato, stalla per bene, ma tu quante volte sbagli quando servizi la gente? O sei lì che ci ma dovevi che mandare c'entra? Parenzo? Ma Franco, che c'entra, scusa? Mi fa parlare, se ci mandavi parenzo. Ma non ho capito, scusa, uno è giustificato perché ha dato una capocciata, secondo te? No, l'ho detto. Tu non hai il coraggio di dire che, secondo te, come quel giornalista là è andato a rompere i coglioni, secondo te è giusto avergli dato una capocciata? No, ma perché? Ma è del noce quando gli ha dato il microfono in faccia a Cosio, a Staffelli, ma che avete fatto tutta questa cosa mediatica? Quando Sgarbi ha dato un testa al tapiro, ma che avete fatto tutta questa cosa? Che paragone quante fa? Volte hai piene e botte questi giornalisti quando intervistano qualche ministro? Salame d'un salame? Che paragone strada, è salame d'un salame? Dove fate tutte queste cose? Ma io capisco, ma io non lo so. Lui ha sbagliato a dargli la capocciata, per carità, però quanto rompete il cazzo voi. Tu Cruciano, quante volte metti in bocca le parole a gente? No, io non metto in bocca niente, guarda. Non c'è bisogno, con te non c'è bisogno. Ma chissà cosa c'hai in bocca tu, guarda. Ma chissà cosa c'hai in bocca tu. Prima gli avete fatto tirare fuori quello che ha detto con Cifroci e poi è stato condannato. Ma che colpa nostra, scusa? Domande del cazzo, capito? È arrivato il professore. Parenzo, sta pur tranquillo, che è l'unica cosa che partiva Parenzo, va de bocca, partiva come è partito a Berlusconi, hai visto quanto gliel'ha detto? E poi quando si è visto davanti, presidente, capito? Parenzo, gli partiva de bocca, senta, capito? Volevo capire po' questo, questa sua dotta ricostruzione giuridica che lei ha fatto, professore Lewis, lei? C'è stava il rabbino, ha parlato mezz'ora di cazzo, come non hai detto, dottore, poi come cazzo ti permetti di chiamare dottore che non c'è manca la laurea? Dove l'hai visto il rabbino? Adesso che c'è il rabbino? Dove l'hai sentito il rabbino? Io non ho capito. Ma dove l'hai sentito il rabbino? Salame, diffamatore, dove l'hai sentito il rabbino? Mezz'ora di cazzo ha parlato, mezz'ora di cazzo non gli ha detto niente. Ma quando l'hai sentito? Come non gli ha detto niente? Ma chi? Rabbino! A chi? Vabbè, Franco, ti saluto, va. Senti, va. Senti, vabbè, dai, Mussolini, va, quanto ciao. Ce l'hai nel cuore, Mussolini? Va, calmo. Quanto c'hai nel cuore, Mussolini? Quanto hai nel cuore, Mussolini? Saluti anche suo fratello, cara persona. Che famigliola quella, ragazzi. Stasera stavo a Pescara. Quando ho sentito, dico che Dio lo volesse, ma lo facesse incontrare qua. Stavo all'area di servizio, non ho dormito. All'area di servizio con i frosci a fare marchette, stavi a fare marchette all'area di servizio, maiale, stavi a fare marchette, stavi a fare schifoso, Franco, quanto hai Mussolini? Proprio una bella famiglia quella di Franco. Quanto hai Mussolini nel cuore tu, Franco? Al 90%. Cioè, proprio, certo. Tu c'hai... E quel 10% che cos'è? Ci vorrebbe per darla sistemata. Ci vorrebbe per levare tutta quella gente come Parenzo, tutto quel buonismo. Tutta quella falsità. Tutta quella... Io sto stasera, ieri sera stavo a sentire, stavo a sentire, stasera. Non lo voglio sentire, A schifoso. Ieri sera ce l'avevi davanti, perché lui ha detto... Non era davanti, era un servizio. Però hai visto la trasmissione? Parenzo, sei più fitto della cambiale. Fermo. Ma scusa, anche secondo te non esistono. Scusami. No, fermo. Franco, anche secondo te. Fermo. Aspetta. Sono famiglia del signor Franco. Anche secondo te non esistono le camere a gas? Le camere a gas esistono o no? Esistono o no le camere a gas? Non cominci a fare domande strunze. Esistono o no le camere a gas? Sono esistite, punto, basta. Sono esistite, capito? Mussoliniano. Ciao, certo, scusami. È venerdì. Crucia, fino a notte! Non mi rompete i coglioni! Sono veramente disgustato da quello che conducete, è una radio veramente seria della Confindustria. Ma non mi rompere i coglioni, stronzone! Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta... State ascoltando un programma offerto da... Su piazzaitalia.it acquista comodamente online tutta la moda che vuoi. La Zanzara. Uè, nano di merda! Anche lui, Puscetta, ti ho sentito! Ciao, Parenzo, Puscetta dei poveri, non mi riconosci! Io sono de destra, e mi fa vergogna. Trovo ridicolo che tutta sta merda, quel giornalista a me non mi fa né caldo né freddo, ma mi fa vergogna che sti pseudo fascistelli de Casa Pound intanto s'appoggiano a uno zingaro di merda mafioso come quello. E mi fanno ancora più schifo tutti sti, quel cretino da Milano, sono Fabrizio da Milano, che si sente che è terrone da 2 chilometri, tutti quell'altri deficienti. Che appoggiano un mafioso zingaro, una famiglia di mafiosi zingari, capito? Pur di essere contro il giornalistino demente di sinistra, capito? Questi appoggerebbero anche, sono succubi della mafia, sono succubi di chi è più forte di loro. Se Almirante ve vedesse brutte merde ve sputerebbe in faccia, anche a sti ridicoli di Casa Pound. Mandalo tranquillamente. Allora Parenzo, questo era il famoso Luca da Perugia, altro editorialista di punta di questa trasmissione. Allora, altro grande intellettuale. Allora, voglio dirti una cosa, io ribadisco quello che penso sulla vicenda di Spada e lo dico senza, lo sai che prendo spesso delle posizioni scomode, no? E ti dico che secondo me se avessi dato la testata a un'altra persona, non un giornalista, non l'avrebbero arrestato, e che l'arresto non è che sto facendo la campagna Spada libero, per carità, l'arresto mi pare dettato dai giornalisti, dalla campagna giornalistica. Punto. Dico solo questo, però non è che faccio la campagna a favore di Spagna. Mi sembra una sciocchezza. Non mi sembra una cosa normale da pensare. Però abbiamo con noi un grande amico della Zanzara che inizia una grande avventura piena di pericoli, ma anche, come dire, in battaglia. Battaglia. Lanciamo l'hashtag, amico mio. L'hashtag lo voglio lasciare così. Io lo so, è un hashtag molto volgare, secondo alcuni, però volevo lanciarlo nei giorni scorsi. Sì. Hashtag famo ier culo. No, famo ier non lo so. Famo ier culo. Fa ier culo. È un hashtag fire culo. È un po' volgare. È un po' volgare. No, detto da te, ma mica sei così elegante tu, però. Scusa, no, come no, mai no, tipo, no, no. Massimo Giletti con noi. Eccoci. Eccoci qui. Allora, come stai, Massimo? Ma io bene. Intanto voglio anch'io dire una cosa. Come sembra che Crociani non abbia tutti i torti, nel senso che questo arresto non è stato immediato, perché ci sono mille problemi dal punto di vista giuridico, le regole vanno rispettate, eccetera. Ma diciamo che è un arresto a scoppio ritardato. Quanti taxisti, quante persone normali, purtroppo in determinate zone subiscono violenze? Io credo che, purtroppo, lo dico con rammarico, che Crociani non abbia tutti i torti. No, ma lo sai perché anche, Massimo? Io spero che le persone vadano messe in galera. Valutato, spero sempre che Spada, ma lascia perdere le cose formali. Devi, tu ti attacchi sempre alle cose formali. Ma il diritto, come insegna Giletti, è forma. Ma se lo girano come vogliono loro spesso, non è che non siamo nati ieri. Cioè, io dico una cosa, Massimo, scusami, la questione è molto semplice. Io spero che Spada vada in galera per cose più gravi, non per una testata, perché questa è la realtà, no? Se deve essere messo in galera, credo che l'ondata di immagini fortissime della testata abbiano avuto un peso, o sbaglio? Ma purtroppo questa è una società dove bisogna fare i fuochi di mortaretti. Abbiamo ancora l'idea che la mafia sia quella con la coppola, il fucile sulle spalle. Bisogna intervenire non quando c'è la cosa eclatante, bisogna intervenire nel silenzio, esatto, in certi territori abbandonati da Dio. È inutile negarselo. Sì, tu è stato arrestato per quel motivo che dice Crociani. Allora, caro Giletti, c'hai paura o no? No, io non ho mai avuto, cioè, la paura è giusto avere, cioè, che c'hai la tensione, che c'hai l'adrenalina, che c'hai l'adrenalina, la tensione, che c'hai? Ma, no, dormi o no? Voglia... Dormi? Ma poco, sempre ho dormito poco, 3-4 ore a notte, ma quello che mi interessa è tornare a lavorare, poi alla fine troppi mesi. Sono un po' di mesi che mi... L'ultima diretta quando è stata? Maggio, quando è stata? Una vita, credo l'ultima diretta sia giugno, quando abbiamo chiuso il programma. Mamma, 5 mesi insieme a cinque. Tutti, però. Senti, possiamo dire una parola definitiva? Perché guarda, a me di questa vicenda della Rai, in fin dei conti, so ma che no, tu... lasciamola stare. No, però una cosa definitiva, perché hai detto tante cose in questi giorni, ma chi è che ti ha fatto fuori? C'è un nome, un cognome? C'è... L'editto. Nome, non è che adesso... Nome, io voglio dire, la Rai e tante persone, c'è un direttore generale che nella sua libertà, lo ripeto, ha deciso di chiudermi un programma. No, Orfeo ha deciso di chiuderti un programma. Ma sul mandato di qualcuno, secondo te? Sarà lui a dire perché l'ha chiuso. Io dico, un manager che chiude un programma che fa 4 milioni si assume una grossa responsabilità, perché certo, dal punto di vista pubblicitario rischia la poltrona, diciamo la verità. Non su questo, dico, in generale ti assumi la responsabilità. A me piacerebbe che quando poi uno ha dei ruoli importanti, alla fine rispondesse ai 4 milioni di cittadini che pagano canone. Ecco, questo sì, mi piacerebbe. E in che modo uno risponde? Cioè, dicendo la verità. Cioè, la verità qual è? Tu hai parlato una volta di normalizzazione dell'informazione della Rai. Cioè, credo sei stato normalizzato. Cioè, sei stato c'è un tentativo. Allora, se la Gabanelli va via, facciamo un programma estremamente scomodo, faticoso, quante telefonate ho avuto io da direttore generale, però viva Dio, il direttore come Leone mi ha sempre difeso, Del Noce mi ha sempre difeso, Mazza, un altro che mi ha sempre difeso, anche se la mia arena è sempre stata spigolosa, però la Rai in cui io sono cresciuto è una Rai pluralistica, dove ci sono più voci. E adesso invece, poi, adesso? Mi sembra che sia una normalizzazione. Ma normalizzazione di che tipo? Cioè, nel senso, Renzi c'entra qualcosa, per esempio, nella tua cacciata, sì o no? La politica in generale? Ma io credo che sia poi alla fine trovare la politica, e magari ha fatto comodo a tutti, anche a chi si è lamentato, diciamo. Cioè, anche all'opposizione, dice l'opposizione, cioè anche... No, l'opposizione mi ha difeso, la Meloni, Gasparri, tanti altri. Noi facciamo domande dirette, no? Renzi, tu su Orfeo sei stato chiaro. Renzi, c'entra qualcosa nella tua cacciata, sì o no? Ma non lo so, bisogna chiedere a Orfeo. Io cosa posso dire? Cioè, no. La verità la sa Orfeo, la verità la sa il suo lui, il direttore generale. Ripeto, libero di fare quello che vuole, ma a me posso essere anch'io libero di interpretare la mia, diciamo, fuoriuscita costretta a cui sono andato via dalla RAI è una fuoriuscita, tra virgolette, politica, chiaramente. Allora, un'altra cosa invece è questa, e mi sembra molto interessante, ed è la Juventus, che è più importante della, forse una delle cose più importanti. Poi torniamo sulla trasmissione. Anzi, la trasmissione è una cosa, non è l'arena, chi se l'ha inventata la cosa? Tutti sappiamo che c'è un riferimento chiaro, non è la RAI. Diciamo, no, l'autore, chi è che è il primo che ha tirato fuori questo nome? Chi è? Diciamo. Siamo guardati Anna Maria De Nittis. Chi è? Anna Maria De Nittis. La sua mitica Anna Maria, certo. Lavorando insieme, siamo presi un po' in giro. Io ho detto non è la RAI, però non è male. Lei ha detto perché non facciamo anche non è l'arena. Mm. E quindi è nata da lì. Poi quanti punti vuoi far perdere? Geniale, quanti punti divertente. Vuoi far perdere? Anch'io l'ho definito geniale. Quanti punti vuoi far perdere a Fazio? Io sono come la Juventus, non guardo gli altri, guardo me stesso. Io cerco di portare a Cairo che del Toro. E quindi sarebbe contento quello di battere vuole, la Juventus quello vuole più del 5% il signor Cairo, Fazio e la Juventus, no? Fazio e la Juventus, sai, a volte anche la Juventus fa fatica col Sassuolo, ecco. Noi beh, adesso non ti definire, non è che ti definisci il Sassuolo, allora parti dal basso, parti no, cioè non, ma no, perché Quinzi è un grande imprenditore, quindi bravo, Sassuolo Quinzi, non è sì, male, signor senti, ma preferiresti alla fine un dell'anno momento. Sì, chi è? Un momento. Buonasera cari compagno ascoltatori, Capanna. Mi dicono sì. Ecco, buonasera, mi dicono che il cosiddetto dottor Gilletti torni a condurre sulla 7, la TV del Cairo, una nuova trasmissione oclocratica dove continuerà a dare la parola a questi mestatori anticasta. Allora mi sembra interessantissimo quello che invece ha fatto questo divino Orfeo, si chiama Orfeo, era una divinità greca mi pare, no? Voi non sapete assolutamente un cazzo, ma questo divino Orfeo improvvisamente cosa? Ha fatto una magia, ha fatto sparire dal palinsesto questo signor Gilletti. Non sarà forse che porto un po' sfiga visto il mio libro che è stato buttato, malmenato e pestato in modo vergognoso nello studio di Saxa Ruba? Comunque voglio fare davvero, essendo Capanna, i miei migliori auguri dal profondo del cuore. Hai fatto cacciare pure tu, una roba incredibile. Senti, ma alla fine dell'anno preferiresti la vittoria di Champions League della Juventus? Questo ci ho pensato, due minuti ci ho pensato. Oppure un successo del tuo programma? Dimmi beh, la verità. Successo del programma? No, guarda che è incerto su questa cosa Guarda che è incerto, dimmi la verità, Massimo. In onore di Cairo. Meglio il successo del tuo programma. Beh, ti rendi conto? Senti, una cosa per Napoli, con cui non hai avuto una grande simpatia, diciamo, no, per Napoli, per le storture di Napoli. No, questo, con alcuni politici napoletani. Allora, se la Juve non dovesse vincere lo scudetto, che ovviamente tu fai il tipo della Juventus, preferiresti lo vincesse il Napoli? Sì, a me farebbe piacere, perché sarebbe il riscatto di una grande città. Comunque abbiamo fatto riconciliare Giletti con Napoli, dai. No, ma è la verità. Sono anni che gioca un calcio. Fanno un po' di piagnisteo, no? Vabbè, questo fa parte proprio di un sistema culturale che secondo me bisogna abbattere, deve essere abbattuto, perché il Sud non ha bisogno di vittimismo, ha gente fantastica, deve lavorare. Bravo, e lì c'è molto vittimismo. Eliminare le scorie negative. E lì c'è molto vittimismo. Vedi il nordico Giletti, no, sentilo. Fa molto vittimismo. Hai ragione, è vero. Senti, però un'altra cosa. Vero. Noi veramente vogliamo che il tuo programma Ricordiamo l'hashtag un attimo, qual è l'hashtag? Fire culo. Hashtag? Fire culo. Allora, Massimo, no, lo so che ti dissoci, però certo, lo facciamo lo stesso. Un po' il mazzo glielo vuoi fare, non il culo, però un po' di mazzo glielo vuoi fare. Vuoi mettere un po' di paura alla RAI o no? Ma che paura, siamo una piccola attorno al crociatore. Basta un sassolino per bloccare l'ingranaggio. Una cosa voglio chiedere a Massimo, che è questa. Tu voteresti oggi, cioè chi hai votato nella tua vita? Me lo vuoi dire? Non fare mentana, no, che non dice mai per chi vota. No, io non ho mai detto quello che voto, cosa penso politicamente, perché credo che uno deve essere corretto nel momento in cui vai. Quello che uno vota, non c'è niente di strano. Cioè, no, io non ho mai detto dove vado, cosa faccio, che faccio a livello politico, perché non voglio essere oggetto poi, vi ricordate, ha detto. Tra l'altro ho votato più partiti, quindi storicamente ho cambiato anche idea alcune volte. Io ho cercato sempre di votare le persone. Ma secondo te Grillo, sì anch'io, Grillo, secondo te chi vota Grillo oggi ha qualche giustificazione, nel senso ha qualche ragione perché è stanco della inefficienza, del fatto che i politici non hanno mai risolto nulla, no? È come la crescita di Casa Pound a Ostia, cioè la poca credibilità purtroppo che oggi hanno molti partiti, anzi io trovo che Grillo sia riuscito a contenere un malcontento che poteva sfociare in estremismi peggiori, come è successo in alcune parti d'Europa. Quindi ha un valore importante. Secondo me, comunque, lo voteresti? Non si candida Grillo. Quindi i 5 Stelle, comunque, hanno stimolato anche un cambiamento in alcuni atteggiamenti dei partiti. Questa è la chiave positiva, secondo me, che hanno avuto. Poi, però, non mi sembra non vogliano governare. Sì, non si vuole alleare con nessuno. Domenica, chi c'è? Dacci un anticipo, un piccolo anticipo, un regalo. Beh, c'è l'avvocato di Fini. Oggi ha scelto mi ha comunicato che verrà, quindi sul famoso caso Tugliani, l'arresto ha fatto arrestare pure Tugliani. ci sarà l'avvocato di Fini, quindi sarà molto interessante. Vabbè, allora Massimo, l'Elemora questo sapeva. Nella parte finale sarà l'Elemora. Allora, ragazzi, non è l'arena, noi siamo amici di Massimo, speriamo che abbia grande successo. Siamo qui, ragazzi. Ciao Massimo, grazie, a presto. Grazie, ciao a ragazzi. Tutti, ciao. Ciao. Oh, mica vuole dire per chi vota, maledetto. Non vuole dire per chi vota. Beh, sai, però ci sta, perché bisogna fa inchieste, le cose, ragazzi, fa le cose, quindi non vuole essere accusato, giustamente, inchiesta perché no. Ma io lo capisco invece, scusami. Noi facciamo anche un altro mestiere, ci esprimiamo, raccontiamo le nostre vite, le nostre cose. Lui fa delle inchieste alle volte anche molto delicate che colpiscono destra e sinistra e quindi giustamente non vuole che magari qualcuno gli dica un domani: "Ah, hai colpito quel partito perché tu voti quell'altro", cioè ci sta, anzi in America è così. Secondo me se uno non dice per chi vota commette già, perché uno se va a votare dice per chi vota. Scusami, è ti faccio un altro esempio, è come dai. Il nostro amico, no, ti faccio un altro esempio che può capire anche quell'imbecille di camionista che ha telefonato prima. Allora, quell'imbecille fascista lo può capire anche lui. I cronisti di calcio, ad esempio, no, a parte ma quelli... Ma non è vero, ma quello è un errore anche quello. Non dicono è mai un errore per chi tifano. Ma io ho sempre detto che è un il errore. Il grande Pardo, il nostro grandissimo amico Pardo, sbaglia, che su questa emittente sbaglia. Non di parte io che lo so sanno perché tutti, tifa lo sanno tutti. E prima o poi lo svelerò. No, scherzo. Ma giustamente lui non dice per chi tifa e ha ragione, perché vuole mantenere la sua equidistanza ed essere ragazzi, libero di criticare queste cose. No, ma in America mi suggerisce giustamente Bagatta. In America tutti sanno per chi votano i giornalisti. Cioè lo dicono tranquillamente, non c'è nessun problema, ma come no? Non è vero, dai. C'è questo stile di giornalismo indipendente e terzo che fa domande cattive. Fulvio da Milano, vai. Fulvio. Eccomi. Dimmi, ciao dimmi. Giuseppe, ciao. Vai, dimmi. Ascolta, io hai un po' bruciato il mio intervento perché con la tua riflessione, seppur tardiva, sul caso Spada. Ma guarda che non è tardiva, non è che io ero contento dell'arresto. Un giorno, perché io le volevo, allora, le amico dire mio, ieri questo. No, ma sì, d'accordo. Io ho detto semplicemente, all'inizio, quando uno vede una testata così, dice perché questo qua non l'arrestano, appunto, non c'è dubbio. Tu stesso dubbio. L'hai detto, meno male sì, che lo riconosci. Quel assolutamente. Giorno eri con me a fare il tifo e a domandarti perché. No, certo. io non faccio tifo per nessun arresto. Aspetta un attimo, devo riguardarmi le immagini dell'arresto. Aspetta, guarda. Mamma mia, quanto mi piace. Sì, comunque, guarda la macchina già... che arriva, guarda il carabiniere che se lo beve e se lo porta via, che bello. Sì, va bene, questa è cinema, va benissimo. Però sto dicendo una cosa, ragazzi, diciamocela in faccia la verità, che perché verità è? L'ha detto pure Giletti prima. Giletti ha espresso prima. La sua opinione, perché, io te ne esprimo un'altra. Perché io devo essere fascista, Giletti no, scusa, non ho detto che sei fascista, scemo. Ho detto che tu fai il tifo per questa situazione per la quale ti sembra... Io ho detto semplicemente che l'arresto è una cosa voluta dall'opinione pubblica, in particolare non dall'opinione pubblica. C'è anche questo elemento. Dai giornalisti, perché se avesse dato la testata, il contesto di una città al voto, clan degli Spada, aggressione a un giornalista, metti insieme tutte queste cose. Vogliamo far sentire Fulvio. Devo correggere, perché non si tratta di arresto, ma è un fermo. Sì, va bene. La sorpresa che potremo avere tra qualche ora. Ma certo, verrà liberato. Fra un po' verrà liberato. Ma speriamo di no. E quindi il signor Spada, il gentiluomo Spada, ce lo ritroveremo ancora sulla pubblica ragazzi, via. È pieno di donne massacrate di botte, mi suggeriscono ancora, che non vengono arrestate. Lì c'è il video e i giornalisti. Il video che non vengono arrestati gli autori delle botte delle donne. Voglio dire una cosa, Giuseppe, che può essere di utilità per i cittadini. Io ho fatto il carabiniere nel mio percorso di formazione della leva, allora? quando ancora si faceva il servizio militare. Allora? E allora, per quanto riguarda il diciamo l'arresto, ci sono c'è una fattispecie. Sì, però ragazzi, non andiamo sul tecnico, no, perché questa cosa qui non ha nulla di tecnico. Fulvio, per favore, no, dai, tecnico, non ci rompete i coglioni normale, con le regole che non contano un cazzo in questo caso. Fosse via la ragazza, il cittadino comune, se assiste ad un reato, è temporaneamente agente di polizia giudiziaria. Vabbè, può allora, lui all'arresto allora, in flagranza. E allora, ma questo che cosa c'entra? Allora, se uno se la sente e ha il coraggio, può agire, perché il problema lì è che è stato forzato dai vabbè, media. Antonio da Catania, dai, Antonio da Catania. Vabbè. Ho capito, amico mio, dai, Antonio da Catania. Sì, pronto? Dimmi. Dunque, no, io desideravo solamente porgere una domanda a Parenzo. Ovvero sia, questo delitto è stato compiuto in un contesto che è mafioso. Dunque adesso stiamo inquadrando questo che vuol dire? Cioè non vuol dire niente. Non è che la testata è mafiosa, ma che cazzo vuol dire? Dai, è una cosa inventata. Sono d'accordo con te, proprio questo stavo dicendo. Due o tre giorni fa 30 somali che chiedevano quindi il riconoscimento dell'asilo politico eccetera, questi 30 somali nella Catania Gela, quindi di fronte hanno bloccato la Catania Gela, che è una strada piuttosto bloccare importante. Bloccare una strada non è dare una testata, però per il commercio. Aspetta un attimo, allora io volevo chiedere a Parenzo, questo delitto, perché per me è un delitto bloccare una superstrada dove c'è un viavai di merci eccetera, da parte di questi 30 somali, esiste anche lì un contesto? Cos'è il contesto umanitario per cui i carabinieri che sono intervenuti non hanno rimosso di forza, perché avrebbero fatto anche possibilmente Fabrizio dalla provincia di Milano, vai Fabrizio. Pronto, Giuseppe. Fabrizio, sei tu. Sono io, quel pezzo di merda di Luca da Perugia che mi ha nominato quell'uomo di merda. Che ha fatto? Bello, però, bello attacco. Quell'uomo di merda che bello, bello educato. Fabrizio da Milano difende lo zingaro, non è un facoglione, io non difendo nessuno zingaro, a me gli spada possono andarsene a fare in culo, a me che cazzo me ne frega degli spada. Ho detto solo che se sei un giornalista e sai da chi cazzo stai andando, cioè da spada, sai che persona è spada. Io non sapevo neanche un anno fa quando arrestarono i Casa Monica, comunque sono andato a vedere su internet e già era tutta la storia di questi spada, si sapeva già. Se tu vai come se dovessi andare dal figlio di Totorino a fare un'intervista, sai che a rompergli il cazzo prima o poi. Ma quando sei intelligente? No, tu stai zitto, Boucher, che veramente ti ho visto ieri sera in televisione fra te quell'altro deferito di Polmini. Ma veramente? L'hai vista allora? L'hai vista tutta anche tu? In 10 contro 1, uomo di merda. Ma come sei? Perché non sei andato a casa fa un coniglio? Perché non sei andato? Tra te e quell'altro Formigli che veramente fa il burka vi dovete mettere per andare in televisione, che siete usceni. Pinguino, però scusami, pinguino, scusami. Il cattivo di Batman. Mangiarti il popcorn, scusami. Guardarla. Però Fabrizio, il fegato, guarda che Casa Pound, il tizio di Casa Pound era contento che erano tutti contro di lui. Cioè... Sì, ma ascolta, ma quello non mi interessa. Io so, cioè, ma la solita, anche sta storia qua, perché è nato tutto questo casino, Giuseppe, tu lo sai. Perché c'è di mezzo Casa Pound, hanno dovuto questa è una cazzata. Io sono il primo a dire che è stato un coglio, però quello che hai detto, che tu sai da chi stai andando. Ma ho capito come che c'entra, che c'entra. Ma Giuseppe, ma se tu vai dal figlio di Totorino a rompergli il cazzo, lo sai che può succedere che ti dà due schiaffi, non stai andando ma da ho un capito, prete. Ma non è sempre giustificato quando uno ti dà due schiaffi. Ho capito, ma non è che con questo io sto dando ragione a quel Luca da Perugia di merda che veramente... Ma come cazzo fate la scelta? Quanto ti è piaciuto ieri il programma? Quella batteria che siete, Fommi, con la trichiotta di Flori. Ma dove che cazzo e li guardi tutti, è? Però? Fermi, sei un mostro, sei. Fermo, lascia. Noi stiamo diventando stranieri nel nostro paese. In questo piccolo fazzoletto di terra, piccolissimo, stanno arrivando ciurme, carnaio dall'Africa. Questi da una nafica immensa hanno prolificati con i loro cazzi duri a chiavare, a più non possa, hanno cagato figli, li stanno portando qui. Li stanno portando qui. Io questi negri li faccio sparire. Tu sei la vergogna d'Italia, tu sei una vergogna, sei bastardo che sei altro. La Zanzara. I mariti devono capire che un cazzo di gomma può assolutamente salvare il matrimonio. Fatti paladino di questa crociata, Parenzo! Vibratore, vibratore, vibra non ti fermare. Parenzo! Vibratore, vibratore, vibra non ti fermare. Vi piace un mondo così? Nel cassetto. fa cagare. Se noia galoppa ti viene incontro la tecnologia. Parenzo, se la carne è scarsa e già c'è la salsiccia di cortesia. E che cos'è? No, tengo un bel cazzo, non ti preoccupare. Caro Davide, dobbiamo fare una telefonata fra poco. Una sigletta vergognosa, proprio. Una sigletta vergognosa. Allora, dobbiamo... Con tutte le voci di Taormina. È bella, è una trasmissione. No, funziona sta trasmissione, però, sai. Dobbiamo fare una telefonata fra poco a Domenico Spada. Domenico Spada è stato condannato. È stato cugino di Roberto di Robertino Spada, quello che è stato arrestato per la testata. Sì. Ed è sostanzialmente un pugile, anche stato campione del mondo. Però ha ricevuto una condanna in primo grado per usura aggravata a 7 anni. Ha senso secondo te, come dire, sfrugugliare quella situazione, secondo te? Sì, ha senso? Sì. Anzi, io lo chiamerei. Sì. Allora, ripeto, proviamo. Domenico Spada, famiglia Spada, cugino di Roberto Spada, detto Vulcano, un pugile. Detto Vulcano, i pugili hanno questi soprannomi, no? È stato campione del mondo. Fino a poco tempo fa, almeno da quello che mi risulta, poi glielo chiederò, è stata ai domiciliari per usura aggravata, condanna in primo grado, sempre per usura aggravata. Lui dice lui dice di essere innocente, ovviamente. Sì, sì. Credo abbia un po' di cose da dire. Ma sentiamo. Vai. Telefono. Pronto? Domenico? Sì, eccomi. Eccoci, ciao, Radio 24, sono Cruciani, ciao. E Parenzo. Buonasera. Ciao, ciao. Non sei più a domiciliare, o sbaglio? Ma io non sono a domiciliare da più di un anno. Ho soltanto l'obbligo di dimora attualmente. Obbligo di dimora, ma come va la situazione processuale per quella vicenda di usura, come va? La mia situazione sta andando abbastanza bene, al punto che abbiamo preso già un quarto di sconto di pena, perché tutto quello che è stato detto i miei avvocati l'hanno tutti impugnati, tutte falsità. A me mi hanno messo in mezzo un raggiro che lei manco solo immagine. Poi parleranno chiaramente, il tribunale parlerà. Ma che c'è stata? La gente che punta il dito, sì. Devi sapere quello che fa prima. Prima ci vuole la sentenza definitiva e poi la gente può parlare. Io sono un italiano, signor Cruciani, che rappresenta l'Italia nel mondo, per il mondo dello sport. Sì. Sono stato pluripremiato dai massimi esponenti del pugilato. Sì. Da Mohamed insieme al 50° anniversario della WBC che c'era. Sì. Come special guest Mohamed Ali mi ha premiato Giovanni Malagò insieme al ministro del Rio in diretta. Ho capito, però c'è un'accusa di usura. Queste cose non le dite. No, le diciamo, non le, dite, le diciamo, le diciamo, ma non vuol dire nulla. Che vuol dire? Ma magari mi invitate, ma magari sono pronto a qualsiasi dibattito. Però lei magari può essere bravo nello sport, però può essere considerato un lazzarone della giustizia italiana. Ma non è che le due cose. Ma sono un lazzarone? No, ho detto lei potrebbe essere considerato. Ecco, specifichiamo bene le parole. Ho detto lei potrebbe essere italiano che la gente qui a oggi ancora neanche loro sanno come chiamarci, definirci. Prima ci chiamavano i zingari, dopo ci chiamavano i rom, adesso i sinti. Fatevi una cultura prima di parlare. Scusami Domenico, noi siamo in Italia dal 1400. Ma io non volevo parlare di questo, scusami, io volevo parlare di un'altra. No, perché parliamo di quello che vi pare, parliamo di quello che no, vi pare. No, però Domenico, scusa. No, perché dobbiamo mettere in bocca soltanto quello che volete? No, per carità, assolutamente no. Ma perché si arrabbia, scusi? Volevo dirti solo sono molto arrabbiato con il sistema. Il processo è iniziato o no? Il processo è iniziato e fino al primo grado dopo 32 mesi. E che succede? Che c'è stato al primo grado? Quanto hai preso? Da 9 anni e 6 che ha richiesto il pubblico ministero, c'è andato a me 7 anni. Chiaramente in primo grado non uscirà manco. No, ma perché io non sto dicendo primo grado è primo grado, e questo siamo. Sì, ma il primo grado è quello che ti arresta. Dopo che dici tutta un botta mi sono sbagliato. Domenico, sto dicendo, sei stato condannato in primo grado a 7 anni, avevano chiesto 9 anni. Da 9 anni e 6 che sono stati chiamati. Hai preso 7 anni per usura aggravata e tu dici ovviamente di essere innocente, giusto? Sì, sono completamente innocente. Ok, benissimo. Ecco, però io la cosa che ti voglio... Per riempirmi le mie tasche di torti, di risarcimenti, danni, tutti in giudizio ci darò per quello che mi hanno fatto. In che rapporti sei con Domenico Spada, quello che è stato arrestato ieri per la questione della testata? Non lo conosco, chi è Domenico Spada? Roberto Spada, è un mio cugino lontano, perché qual è il problema? No, assolutamente, volevo sapere che ne pensavi di quello che è successo a Ostia. Quello che pensavo che è uno schifo, perché alla fine che facciamo? Allora, se una capocciata la dà lei, prendiamo soltanto una piccola stupidaggine, se la danno spada è mafioso. Ma di che cosa stiamo parlando? Cioè, che cosa hai sbagliato? Ma è grave o no? Questo è uno scandalo, questo è uno scandalo. È uno ma cosa è uno scandalo? La capocciata sarà uno scandalo, no? La capocciata è uno sbaglio. Allora, io l'ho messo in primis. Mio cugino Roberto Spada ha sbagliato. Ha sbagliato come ha sbagliato Sgarbi a schiaffeggiare la Mussolini, ha sbagliato come Dernoce che gli ha spaccato il naso, Staffelli che gli ha spaccato il naso a Dernoce, quindi perché queste cose? Vabbè, adesso dire? Sono cose diverse, scusami Domenico se ti interrompo. Ma come non sono diverse? Che c'entra? Da voi. Ma che... Scusami, io vi rispetto perché voi vi sento sempre perché mi piace come raggi delle cose in parte. Aiuto. Però diciamo aiuto. Le cose quelle vere. Non diciamo ma lei, scusi il signor Spada, lei ascolta sempre la Zanzara? Sì, quando è possibile, bravo, adesso bravo, che sto lavorando bravo, nella mia palestra. No, era per capire quali sono anche i nostri ascoltatori. Grazie, no, volevo dirlo. Ma io sono orgoglioso della Confindustria. Sì, no. Mi fa sempre un sacco ridere anche il signor Cruciani. Per quello vi sto rispondendo. Allora, Domenico, scusa, torniamo al punto. Secondo te che cos'è uno scandalo? Siete amici con Cruciani. Ma no, ma non ci siamo mai visti. No, che vabbè, tanto abbiamo detto. Ma il giornalista ha esagerato a insistere? Il giornalista là, sono 3 anni che stanno girando sotto le loro case. Che c'entra? Come che c'entra? Vabbè, che vuol dire? Non si può girare. Ma senta un attimo, ma mi spiega perché... cosa c'entra però, noi scusi? Noi gli ha spaccato il tetto nasale a Staffelli, non sta in galera. Mi spiega questo, cioè, lei? Cioè, secondo te l'hanno arrestato solo perché è Spada? Perché è Spada. Oh, ci sono inventati... Oh, mi hanno chiamato gli avvocati, è una cosa inaudita. Cioè, l'aggravante mafiosa si sono inventati. L'aggravante mafiosa per della capocciata. Questo effettivamente... Questo effettivamente... Ma dove sta mafia? Devo dire la verità. La mafia ve la state inventando. La mafia ve la state inventando. No, adesso la mafia inventata non è inventata perché... No, il, come dire, gli Spada... La mafia a Roma non esiste, quello che sto dicendo. La mafia a Roma non esiste. Vabbè, gli Spada sono un clan, non lei evidentemente, ma... Una grande famiglia, ma quale clan? Ma c'è gente in galera, non tutti ovviamente, però in gran parte sono dei criminali. Non tutti, ma no, mi scusi un attimo, signor Cruciani. Io la rispetto e glielo dico un'altra volta. È normale, siamo una grande famiglia. C'è il buono, il bello, il brutto. Ho capito, però quelli anche lo stesso Domenico ha dimostrato, scusi Domenico, mi confondo i nomi, anche Roberto. Lo stesso Roberto ha dimostrato con quella testata che è un criminale con quella testata o no? Ma un criminale, ma quanti ce ne stanno? Siccome sono uno Spada, lo sai come mi hanno chiamato? Come? Come? Mi hanno chiamato peggio dell'ISIS. Lei se lo rende conto, io sono un cristiano cattolico che sono andato finché nella Terra Santa, a Gerusalemme per la mia religione, e a me mi hanno chiamato peggio dell'ISIS. Questo lo sai chi l'ha fatto? Chi dovrebbe rappresentare lo Stato italiano? Tanti ma io non sto dicendo niente, io volevo chiedere un parere su quello che è successo a suo cugino, cioè non è che ti volevo chiedere... Allora, mio cugino è stato per tanti anni perseguitato, perché questa è la verità. Ma come perseguitato? Ha sbagliato. Ma perseguitato da chi? Scusami, perseguitato da chi? Da questi pseudo giornalisti. Capito, ma ragazzi, ma i giornalisti fanno le indagini. No, non può dire così, scusi. È normale che uno va lì... Importante. Io, scusi, l'ho fatto tante volte, vado lì, intervisto, faccio domande, uno se vuole non risponde, ma non mi tira la capocciata in faccia, scusi. Ma quante volte gliel'ha detto non voglio rispondere? Quante volte gli ha detto? Ci rompi i coglioni, giornalista. E certo. Ma è un bravo ragazzo, Roberto? Roberto Spada innanzitutto è incensurato. Come lo sono io? Io divento campione del mondo, non viene detto, vado in galera 3 giorni di DG. Perché cosa? Questa è l'Italia, il paese dei balocchi lo chiamo io. Però scusami Domenico, non puoi negare che la famiglia Spada a Ostia faccia il bello e il cattivo tempo e che domini... Ma ci sono gente che lavorano, c'hanno il bar, c'hanno il ristorante, ma perché dite sempre così? Ma ci sono, ma ho capito, ma quelle sono probabilmente anche delle attività, come dire, apparentemente legali, poi c'è tutto quello che c'è dietro. È un'attività apparentemente registrata e riconosciuta dal CONI. Chi voti alle elezioni tu? Ho votato il pseudo partito 5 Stelle che sono soltanto riciclati di sinistra e di destra. Hai votato 5 Stelle e voterai 5 Stelle alle prossime elezioni? No, assolutamente no, mi sto creando una... Chi voti? Civica. Casa Pound, chi voti? No, assolutamente no, io non sono per di destra. E alle prossime elezioni che voti? Io, la mia lista civica, perché mi sto creando una lista civica. A Ostia c'è il clan Spada che fa attività illegali, si può dire questo qua? No, è sbagliata. Ma come è sbagliato? Dai. Ma c'è gente in galera, c'è gente in galera condannata a 10 anni. Ma chi è in galera? Ci sono più di 300 Spada lì a Ostia. Ma sono più di 300 in galera. Non dominano Ostia? Io sono con voi a fare qualsiasi patimento. E mi piacerebbe incontrare quei pseudogiornalisti che fanno tante le vittime, quanto sono belli quei pseudogiornalisti. Chi, per esempio? Sono chi? I dipartimenti. Quella di Repubblica, è una pseudogiornalista. No, io parlo in generale, tutti, perché noi siamo, se abbiamo il paese, lo sai che abbiamo un primato, signor Cruciani? Qual è? Il deprimato che abbiamo 20 giornalisti sotto scorta. Neanche il Venezuela! Neanche il Venezuela! Ma che dice però? Su questo c'è poco da ridere? Ma su questo c'è poco da ridere però. C'è poco da ridere su questo. Ma su questo c'è poco da ridere, signor Spada. Mi scusi se glielo dico, ma lei non dovrebbe essere felice che i giornalisti sono sotto scorta perché raccontano le cose. Perché Federica Angeli, per aver raccontato... No, scusi però. No, no, no, scusi. Federica Angeli ha dei figli, vive a Ostia e con coraggio ha affrontato le minacce dei clan a Ostia. No, ancora nulla con sta storia. Allora, però, avete quella donna, quella collega, ha la vita rovinata. È una, scusa, la verità. Hai detto è una? Millantatrice. Una millantatrice, che vuol dire la millantatrice? La millantatrice, è una millantatrice secondo me. È sotto scorta. È una vergogna. Una ragazza, una donna con dei figli ancora, che vive sotto scorta per aver scritto quello che ha, le inchieste che ha fatto, e lei dice una millantatrice. Ma è una cosa incredibile. Ma scusi un attimo, ma lei mi fa una domanda. E lui risponde, dice che è una millantatrice. Io ho detto che mi sembra una cosa vergognosa dire che una donna che da anni... Mi dice come si chiama lei? Parenzo, io mi chiamo Parenzo, forza, mi dica. Qual è il problema? Io mi chiamo Parenzo. Parenzo, David Parenzo. Parenzo, il nome come si chiama? Parenzo, David Parenzo, David Parenzo. David si chiama. Sì, David. Come dica, signor David? Secondo me Federica Angeli è una millantatrice. È una grande buffona, basta. Voglio spiegare questo al signor Spada. Ma secondo lui sono tutte cazzate, evidentemente. Ha figli, no? Ha dei figli, è da anni minacciata di morte dai clan. E nonostante questo, ma le prove? Beh, sì, se si è messa sotto scorta. Ah, ce le ha lei le prove? No, io ne sono estraneo. Scusami, Domenico, adesso. Allora, tu dicevi: non è vero, sì, dove stanno i clan, dov'è la criminalità, eccetera. Allora, poco, un mese fa, per più di 50 anni di carcere, con la conferma dell'aggravante del 416 bis, 7 componenti del clan Spada. Massimiliano Spada 13 anni e 8 mesi, Ottavio Spada 5 anni, Davide Cirillo 6 anni e 4 mesi, Mirko Miserino 6 anni e 4 mesi, Maria Dora Spada se... No, ma non è il processo, sono stati dati più di 50 anni di carcere pochi mesi fa. Ma io questo per dire che esiste, ma esiste un clan Spada, sì o no? Per me non esiste. Non esiste la mafia. E queste condanne? Le condanne sono state definitive? Ma alcune sì, altre no. Accusati di minacce, violenze. Sarà definitiva. Ma allora, ho capito, ma certo. Sfratti, minacce, ripeto, violenze, sfratti forzosi. Ma ho capito, ma uno non può negare la realtà però, che esista un clan criminale. Ma se non è così come dite cioè, voi. Cioè non esiste nessun clan criminale Spada Ostia secondo te? No, per me no. Non esiste, vabbè. E non esiste la mafia Ostia. C'è qualcuno che ha sbagliato, ci so che paghi anche. Daniele Piervincenzi, dato che ha la frattura al setto nasale, cosa gli vuoi dire a questo giornalista? Allora, mi dispiace dell'accaduto. Di Casa Pound, cosa pensi di Casa Pound? Casa Pound, io da quello che ho visto quando stavo a Ostia, esatto, ho visto che lavorano molto per il popolo. Che fanno un sacco di beneficenze, quello che ho visto. Dunque io fanno bene, diciamo. Diciamo a Natale hanno fatto i pacchi, alla Befana hanno fatto la Befana. Io ero presente, io. Fanno il bene del popolo, diciamo. Io quello che ho visto, sì. E alla palestra di, come dite voi, di Roberto Spada, sì. Se c'hai i soldi, paghi, se non ce l'hai, non fa niente. Cioè, voi dovete. Dunque, dovete... Roberto Spada è un benefattore? Certamente, è una persona che lavora per il popolo, che lavora per i ragazzi bisognosi. Va bene, ciao Domenico. Grazie. Per il tuo cervello scegli il meglio, la zanzara. La zanzara. Fidati di un miserabile. Fidati di un miserabile. La zanzara. Scusate, ma ragazzi, ma solo io mi sono sempre innamorato dello strip club. Entravo dentro al night, tu quando andavo al night, ogni volta mi innamoravo. Stufe e caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Vi presento la zanzara. Ascolta, che tu ti sei allontanato, a me non me ne frega un cazzo, hai capito? Solo che impara a dirle in faccia le parole, vigliacco. Devi dirle in faccia le parole alle persone, hai capito? E cancella le mie foto, perché io ho mio cognato è un carabiniere, ti faccio vedere se cancelli le foto sì o no, hai capito? Cancella tutte le mie foto, stronzo. C'è tensione. Tradimento. signora pugliese leggermente incazzata con col suo ex fidanzato. Comunque ragazzi, Domenico Spada, ma perché ci ha lasciato il messaggio a noi, scusa? Ma non lo so, ha mandato un messaggio. Il mondo è curioso, ma è la zanzara, il mondo della zanzara. Qui è arrabbiata con l'ex fidanzato. Sì, sì, bravo, ha lasciato un messaggio anziché chiamare un avvocato. No, chiama la zanzara. No, non è che ha chiamato la zanzara, ha mandato ha registrato un messaggio da poi da mandare su quei anche WhatsApp maledetti che la corte usa costantemente. Sì, quei maledetti. Allora ragazzi, non so se avete sentito prima Domenico Spada, cugino di Roberto Spada. La mafia non esiste. Ha sbagliato a dare la testata, ma in fondo si è comportato come Sgarbi e come Del Noce. La giornalista di Repubblica è una grande buffone, una millantatrice. Pazzesco. Mio cugino è un perseguitato. Siamo una grande famiglia, non un clan. Non esiste alcun clan criminale a Ostia. Vabbè, Gesù, Alberto, Gesù è morto dal freddo. E andiamo avanti. Gesù è morto dal freddo. Alberto da Roma, vai. Buonasera Cruciani, buonasera Parenzo. Vai, dimmi, forza. Allora, secondo me il caso Spada in realtà vuole mistificare il fatto che, o meglio, vuole dare un risalto negativo al fatto che Casa Pound abbia preso tanti voti nella circoscrizione di Ostia. Io sono un piccolo imprenditore, sempre stato liberale e liberista. Ma che cosa moderato. Vuol dire? Scusami, amico mio, ma cosa vuol dire? Se non ci fosse stata quella testata, nessuno avrebbe protestato per i voti presi da Casa Pound, eccetera. E probabilmente sarebbe stato registrato come cronaca locale questo appoggio, tra virgolette, o comunque appoggio secondo quello che pensiamo noi o secondo quello che pensano alcuni, del signor Roberto Spada a Casa Pound alle elezioni. Sarebbe rimasto. L'intervista, perdonami, arriva proprio perché si ipotizza che... Ma qual è il punto? Non ho capito, Alberto, allora, mi spieghi un attimo. Il punto è che io, che sono un liberale, un liberista moderato, che ho votato nella circoscrizione di Ostia, e non avrei mai pensato fino a qualche anno fa di votare Casa Pound, ho votato Casa Pound. Hai votato Casa Pound, allora per chi? Perché la situazione in quella circoscrizione sta diventando... ingestibile. Io abito nella zona dell'Infernetto, che è piena di purtroppo migranti che sono completamente allo sbando. Cioè tu hai votato Casa Pound per i migranti sostanzialmente? No, per pensare che per avere maggiore ordine, un po' più di ordine laddove la politica nazionale purtroppo non riesce. Jamel da Milano, Jamel, almeno così leggo. Jamel, che cazzo è Jamel? Buonasera Cruciani, buonasera Parenzo. Ma che nome ha Giamè? Che nome è Giamè? Fammi intervenire che poi ti spiego tutto, mi puoi prendere per il culo. No, non ti pare. Sto pigliando per il culo, voglio capire Giamè. No, ho detto che poi lo puoi fare se vuoi, ci mancherebbe. Dimmi Giamè, non c'ho bisogno del tuo permesso. Velocissimo, premesso che io ho goduto tanto quanto Parenzo, ho goduto vedendo le sirene arrivare per questo tizio. Però la riflessione che vorrei portare un attimo... è semplice. Allora, ci deve essere un limite per il quale un giornalista intervista un privato cittadino. Io sono qui, parlo con te perché io accetto di chiamarti, di parlare, di cosa intervenire. Cosa vuol dire? Ma non è, ma voi siete matti, basta andarsene a casa. No, tu non puoi andare a casa tua, la tua palestra. Tu non te ne puoi andare. Che è lui dire? Che su invito si deve. Ma non era, allora, ma non è che è entrato dentro col piede di porco dentro casa. Non è che ci deve essere solo un'aggressione, devo entrarti per disturbare, perché se entro in casa tua ti disturbo, io posso anche inseguirti per la strada. Io sono un privato cittadino, se fossi un personaggio pubblico sarebbe anche diverso, ti do ragione su questo, ma un privato cittadino ci deve essere un limite, amico mio. Che poi non può essere non dire, un estremo, senti, non che dire cazzate, non dire ignorare. Cazzate, le domande no, si possono non è fare vero. Ci deve essere ma un limite, ma che vuol dire, chi lo decide il limite? Scusa, chi lo decide il limite? Il limite è la legge. Se tu ti introduci a casa di qualcuno, allora la legge non si può modificare, la mia libertà finisce, la mia libertà inizia dove finisce quella di un altro. Ma cosa vuol dire? Che tu ma se uno fa le domande, se uno fa le domande, fa le domande. Signor Jamel, lei dice sciocchezze. Lei dice sciocchezze perché il tema non è questo qui. Lei sta discutendo su quante domande poteva fare o doveva fare il cronista di Nemo o altri, o fino dove poteva arrivare. Lei sta dicendo una stupidaggine. Lei rimpiangerà quando i giornalisti, Dio non voglia, non potranno più fare le domande che vogliono. C'è già stato un periodo in questo paese. Ma i limiti quali? Quello là. Ma che limiti di chi? Pubblico per definizione. Ma quello è un personaggio pubblico. Ma sei un privato cittadino incensurato. Tu non puoi andare. Ma nessuno non l'ha molestato. Puoi andare tutto quel tempo. Guardi che è stato lui. Stop. Lui gli ha detto stop di fermarsi. No, non ha detto stop. Ma che vuole? No, aggredito. Deve essere un limite che non è la testata, perché non può essere giustamente la testata. L'ha aggredito. Ma dall'altra parte non ci può essere neanche nulla più assoluto. Vabbè, ciao Giamella, non... stai di ragazzata. Ciao, ciao. No, non ciao, è vero. Ciao, le dici ciao. Tu. Ciao, ciao, ciao. Allora ragazzi, domani alcuni matti sfilano a Roma in onore della rivoluzione di ottobre. In onore della rivoluzione di ottobre. In onore della rivoluzione di ottobre. Matti furiosi, il comunismo ha fatto più di 100 milioni di morti in tutto ma il mondo. Sì, 100 bene. Milioni di morti. C'è gente che va addirittura a Mosca a festeggiare, italiani malati di mente che vanno a Mosca evidentemente in vacanza, non a festeggiare, non bisogna festeggiare nulla, non bisogna festeggiare. Io mi incazzo quando c'è un sindaco di un comune a filo a file vicino Tivoli che viene condannato per apologia di fascismo semplicemente perché ha creato un sacrario al generale Graziani. Un sacrario? Ma chi se ne frega? Un sacrario? Apologia di fascismo? Vabbè, comunque. Cos'è l'apologia di fascismo? E intanto nello stesso tempo ci sono gente che festeggia 100 milioni di morti del comunismo. Ma il fascismo è la storia italiana. Siccome il fascismo è la nostra storia, si incavoleranno i russi, no? Siccome fascismo e comunismo ancora animano, aspetta, ancora animano il dibattito. Beh, amico mio, un nostro vecchio amico, un vecchio fascista, eccetera, ha chiamato il Partito Comunista Rivoluzionario di Albenga Fracazzo da Velletri. Senti un po', senti. Sì, Partito Comunista dei Lavoratori. Io sono una persona. Anch'io sono una persona, io sono il camerata Italo. Dimmi camerata, fammi sentire l'utilità della tua chiamata, quale sarebbe? Intanto che avete una barca di soldi da buttare voi comunisti per andare a Mosca a festeggiare sta stronzata del centenario della rivoluzione d'ottobre. Noi non li pigliamo dai padroni e... Ma non vi vergognate? Come li pigliate voi? Ecco, ma non vi vergognate a buttare così soldi per ste stronzate in mani? Cosa dovremmo vergognarci? Ad esempio, quanti zingari ed ebrei avrete trucidato? Andare a pulire le tombe dei repubblichini, non vi vergognate di andare in giro ancora a fare i saluti? Ehi amico, quanti zingari? Mi fate appesi per le caviglie e ci ritornerete. Ah, come sei simpatico. Quanti zingari ebrei avete trucidato voi? Mi interessa andare a cantare Faccetta Nera di nuovo in Africa, come già sta succedendo. Insomma, ma un minimo di vergogna, caro amico. Noi non rompiamo i coglioni a voi, caro mio. Ah, no. Sono stato ad aggredire una compagna, due uomini aggredire una donna, sono stati tuoi amici camerati, caro mio. E le foibe? Quanti ne avete ammazzati con le foibe? Amici camerati, caro mio. Le foibe? Non ce ne facciamo un cazzo. Ma col cazzo che faccio passare liscia, perché solo in Italia il Partito Comunista Italiano ha permesso a facce di merda come voi di ricostituirsi e di rimanere impuniti, perché fossi stato in quel periodo storico, con Tito ci andava a braccetto e ce le buttavo dentro le foibe tutti quelli come te per cancellare voi e le prossime generazioni di fascisti, e la guerra civile la faremo anche contro di voi. Io non sono un buonista, io non mi nascondo dietro le parole. Eccolo, farete la guerra civile rivoluzionario. Io sono dell'idea che useremo i fucili contro i padroni e contro di voi. Bello. Nel caso le utilizzeremo di nuovo. Io non mi nascondo. Pacifisti, grande amico mio. Bene. Non sono mai dato del pacifista, caro mio. Te non stai ascoltando. Tu dici? Io non ho fatto la guerra e tornato piangendo e rimpiangendo di essere andato in guerra per le porcate che gli hanno fatto fare i gerarchi di merda quando andavano a bruciare i villaggi per poter italianizzare l'Albania e la Grecia. Ti piace il termine merda però? Anche peggio. Ma di che cazzo parli? Ma ti piace il termine merda proprio? Si vede che ci sguazzi sempre con le idee politiche. Ma spiegami, perché io puoi attaccarti alla merda. Vergognatevi, Isacco, comunisti! Isacco, vieni sotto casa mia. Sì, vergognatevi! Vergognatevi! Isacco, ancora, continua. Comunisti! Cosa ripetere quattro frasi in croce vi insegnano un po' di slogan, già uno che è morto appeso per le caviglie. Tu sei il più grande curatore del mondo. Sei il più grande curatore del mondo. Cattiva! Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta. piazzaitalia.it. Tutta la moda donna, uomo e bambino con accessori e calzature su piazzaitalia.it. Acquisti comodamente online su piazzaitalia.it. Ehi tu, di che plastica sei? Io sono un imballaggio in plastica. E io in bioplastica. Siamo simili ma con un diverso fine vita. Riciclato tornerò nuova materia prima per la produzione di utili oggetti. E io compost per concimare la terra. Per questo nella raccolta differenziata dobbiamo essere separati. La plastica va con la plastica. E la bioplastica nell'umido. Guardaci bene, separaci meglio. Riconoscerci è facile. Vai su dicheplasticasei.it. È un'iniziativa di Asso Bioplastiche, Corepla, Conai, CIC. Da 10 anni Infocert è innovazione e trasformazione digitale, con la fiducia di oltre 1,5 milioni di clienti. Vai su infocert.it e scopri quello che possiamo fare per te. Infocert, gruppo Tecno Investimenti. Quando sei sulla tua Jaguar, non devi pensare ad altro che al puro piacere di guida. Per questo abbiamo creato Jaguar Jump, il primo leasing Jaguar anche per i privati, con furto incendio, RCA, manutenzione, garanzia e assistenza stradale per 3 anni inclusi. Scopri Jaguar F-Pace con Jaguar Jump a €495 al mese. Tanfisso 1,95, tag 3,92, salva approvazione della banca fino al 30 novembre 2017. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi presso le concessionarie Jaguar aderenti all'iniziativa. Principe? Baronessa, che piacere! Ma che fa con una bolletta Green Network? Risparmia? È della mia assistente. Per lei, principe, ci vuole una di quelle vecchie care compagnie tradizionali. Care soprattutto. Ma sì, in fondo costa solo pochi eurini in più. Ammazza che tramada, una bella differenza. Io magari intanto chiamo l'800-584-585 o vado su greennetworkenergy.it. Chiama, chiama. Green Network, hai sentito la pronuncia di Oxford? Un euro. Domani è l'11/11, il giorno degli sconti in Cina. Sì, ma in Cina. Ma da Unieuro scontano tutto del 22%. Il 22% su tutto? Ce lo vogliamo perdere? Non credo proprio. Spesa minima €199. Dettagli ed esclusioni su unieuro.it. Unieuro. Batte. Forte. Sempre. State ascoltando un programma offerto da... Su piazzaitalia.it acquista comodamente online tutta la moda che vuoi. La Zanzara. Non sto bene, non voglio con Rom più vivere, non voglio sapere di Rom niente, e io voglio solo uscire da questo inferno. Parenzo, 10.000 firme raggiunte. Fai un gesto, Parenzo, un gesto concreto. Io sono, come dici tu, un miserabile da educare. Fai un gesto concreto. Assumila Rom. Voglio la roba a casa di Parenzo. Parenzo, assumi sto cazzo di Rom. Parenzo, qui non è che ci puoi Rom. Assumi la Rom. Parenzo, ti dico solo una cosa: se non assumi Zappaeta, organizzi i pullman, veniamo tutti con i pullman a Milano. Parenzo, assumi Zappaeta, altrimenti manifestazioni a Roma e a Milano. Assumi, cazzo, assumila. Vedi, Spada, questa Spada mi sta sul cazzo in primis, non tanto per il giornalista, non me ne frega un cazzo, perché ha portato l'attenzione su se stesso e non più su Zabaeta, che dovrebbe essere a casa di Parenzo a piegargli le mutande, porca puttana, eh? Beh, basta sto Spada e torniamo su Zabaeta, forza, Zabaeta, Zabome cazzo si chiama. Allora, Sandro da Roma, ma Zabaeta... Sono ormai allibito, sono ormai allibito da questa aggressione mediatica che fate, ma sono allibito da questa aggressione mediatica. 10.000 persone chiedono di assumere una signora a Roma, oltre 10.000 persone. Di 10.000 no. Foto di queste false, Sandro, queste false online petizioni. Vale, buonasera a tutti. Dai, Sandro, su, non ce ne frega cazzo. Allora, sì, scusa, ce ne frega un cazzo. Allora, buonasera. Ho staccato da lavoro adesso, un buco di culo delle 6 stamattina, faccio l'autista. Sì, e finalmente tu dici, vabbè, sarà uno stronzato, però ho visto che almeno hanno arrestato questo con una capocciata, no? Perché diciamo che chi lavora con questo me... Questo è già successo, poi, è già successo nella giornata di ieri, però. Vabbè. Allora? Però diciamo che questi che dicono che il giornalista era 3 anni e il parente che se ce l'avevate davanti aveva dato una capucciata in faccia pure a voi. Probabile, sì. A me sotto casa mia, io so questo, diciamo, pulito lavoro, onesto, da 35 anni che lavoro, io non ho visto nessun giornalista sotto casa mia, non mi è venuto a intervistare nessuno, perciò quando vanno questi, qualche cazzo di verità c'è. Vabbè, allora? Secondo, se 3 anni fa invece di andarci il giornalista sotto a questo tipo di gente, ci andassero i carabinieri, perché io abito a Roma, e vivo in delle zone dove vedo tutto io. Allora? Cioè, se, è tutto qua. Cioè, Vabbè, Sandro, ciao, non sento un cazzo. Pietro da Roma, dai, Pietro. Ecco, ciao. Pietro. Ciao Crociani, ma come ti permetti di dire che l'anniversario del centenario della rivoluzione è una minchiata assurda? Ma come? Chi ha detto che è una minchiata? Io non ho detto che è una minchiata, ho detto che c'è gente che festeggia il comunismo oggi. Grazie al comunismo. Spinta delle masse operaie. Le masse operaie. Sei una capra. È arrivato il comunista Dantan. Non sono comunista. Riveduto e corretto. Che sei? Sei stalinista? Che sei di più? Che sei stalinista? Che sei stalinista, imbecille. Luca da Trapani. I diritti ce l'hanno dati i comunisti. È una trasmissione pazzesca. Vai, Luca, dimmi. Ciao Giuseppe, buonasera. Mi senti? Sentiamo quest'altro, vai. Sentiamo. Oh, senti, ascolta. Ciao Giuseppe. Dai, è la seconda. Sì, la terza domanda a farlo. Ciao. Vai, quell'altro. Luca. Allora, quello che non mi ha dato giù è solo un discorso, il paragone che ha fatto il giornalista, anche se prendo le distanze naturalmente dalla violenza gratuita che è stata fatta da quel testo di cazzo, e non so, probabilmente, anzi sicuramente l'ha fatta dopo, a seguito anche del trauma, ho letto che praticamente lui ha detto neanche fosse andato a Napoli o fosse andato in Sicilia, ma sono stato trattato così male. Ma lui intendeva probabilmente dai mafiosi o dai camorristi, questo intendeva. Ho capito, ma cosa c'entra il popolo siciliano, il popolo napoletano? Ma non credo se la sia presa con quello. Aspetta, chiedi a lui, a me che cazzo me ne frega, non ho sentito quelle dichiarazioni che ha fatto il giornalista che è stato picchiato. Ma non lo so, manco fosse a Napoli o in Sicilia, intendeva magari in qualche zona controllata dalla camorra o dalla mafia, immagino questo. Ma non penso che... Vabbè, senti, quello là è uno di sinistra, quel giornalista, non credo. La X sotto casa di Mira Bagarella non è successo un cazzo. Ti ricordi? Sì, non c'è niente. Vabbè, perfetto. Luca, ho capito. Quando tu vai invece sotto casa di queste merde, perché oggi si chiamano Casa Pound. Sì. E prima si chiamavano la Frangia Estrema di AN, prima ancora la Frangia Estrema di AN. Ma non è andato sotto casa. Ma non è andato a Casa Pound. La spada, non Casa Pound. Ho capito, ma chiamalo come cazzo vuoi, sempre lui. Voglio dire, ma non è sempre lui, ragazzi. Non diciamo cazzate, non è che spada è uguale a Casa Pound. Non diciamo minchiate, perché non è così, oggettivamente non è così. Allora fai una bella intervista, vai da Spada e dici cosa ha votato tu. Ma io l'ho chiesto prima all'altro Spada, dice che ha votato 5 Stelle. Cioè, che c'è, no, Domenico Spada, quello della testata. L'altro avrà votato per Casa Pound, l'ha detto, sì, uno singolo ha votato per Casa Pound, ma non c'è l'equivalenza assoluta Spada uguale Casa Pound. Questo sarebbe ridicolo, nessuno lo pensa, no? Ciao. Amico mio, tu l'hai visto? No, non è così, Giuseppe, perché tu l'hai visto? Ciao, quello ha fatto l'intervista con il manganello dietro la spalla. Non lo sappiamo. Sì, l'abbiamo visto. Allora, che cazzo vuoi da noi? Che gente che va in giro con i manganelli, secondo te di che sono? Ma che vuoi da me? Ma chi ha detto che sono delle orsoline? Ma che sei impazzito? Ciao. Allora ragazzi, minuti finali, li voglio trascorrere con un signore. E per parlare, caro David, cosa di una fai cosa... poi il weekend? Cosa aspetta, fai ma che poi? Me ne frega, alle 20:43 no, ancora sono carico. Allora, la cosa fondamentale è questa. Voglio parlare di una cosa che si chiama vulva, una cosa che si chiama anche fica, una cosa che si chiama in altri termini apucchiacchia e in alcuni casi anche usticchio, lo sai benissimo. Allora, abbiamo sempre parlato di pene, come sai, no? Di pene ricurvo, di problemi del pene, di erezione. Questa volta parliamo della ricevente. Cioè la vagina. Ecco, vulva o vagina, vediamo le differenze. Ci parla il dottor Alessandro Littara. Buonasera. Buonasera a lei. Come andiamo? Parenzo agli ascoltatori. Come caro va, dottore, come grazie, va? Buonasera. Come va Alessandro? Bene, è uno che fa un sacco di interventi sulla vagina, caro Parenzo. Lei è un ginecologo praticamente? No. Io sono un chirurgo sessuale. Fa la vulvo-vaginoplastica. Vulvo-vaginoplastica. Perché invece Cruciani è un maniaco sessuale. Cioè, no, lei è un chirurgo sessuale. Non è vero, sto scherzando. Ovviamente. Allora, praticamente, ciao. Innanzitutto. Quindi lei lavora dove gli altri si divertono, come disse il grande professore. Purtroppo sì. Purtroppo è vero. Però se lavora, magari si diverte pure lui. Gli altri si divertono. Magari si diverte pure lui. Allora, beh, vedendone così tanti, gli viene a noia, credo. Beh, è un pericolo che si può correre, sì, un pericolo che effettivamente si può correre. Allora, la vulva che meglio centellinare. Sarei in difficoltà, perché io vedo sia uomini che donne, sì. Anzi, forse per la maggior parte sono uomini, quindi alla fine dove casco è sempre un problema, insomma. Ma non ho capito, vede anche gli uomini, lei visita anche gli uomini? Certo, sì, perché noi operiamo sia gli uomini che le donne. Gli però lei, però lei è specializzato soprattutto nelle donne, o sbaglio? Diciamo che facciamo sia gli uomini che le donne, dipende dalla richiesta. Senta, professore, un po' per capire, la vulva, che cosa si intende per vulva? La vulva è la parte esterna, quella che molto impropriamente viene chiamata vagina. In realtà la vagina è la parte interna. Allora, vediamo, parte interna, vagina, il canale. Grazie. Parte esterna, vulva. Vulva. Io sono sicuro, Parenzo, che tu questa cosa non la sapevi. Beh, ti deluderò, ma insomma, scienze l'ho studiata anch'io al liceo. Senta, qualche tempo mi dicono fa, però che uno degli interventi più diffusi sia la labioplastica riduttiva, cioè la riduzione, ecco, delle, so, la riduzione delle piccole labbra. È cioè, proprio così, perché è ci sono di gran lunga più richiesto. Più richiesto, perché ci sono delle donne che si presentano delle labbra enormi? Ma ci possono essere donne che congenitamente nascono con questo tipo di diciamo piccola alterazione anatomica. Cioè, che cosa vuol dire? Per esempio? Di normalmente le piccole labbra dovrebbero rimanere all'interno delle grandi labbra, non dovrebbero protrudere, uscire all'esterno. Cioè, invece ci sono persone, donne, che hanno questo tipo le grandi labbra, alterazioni anatomiche, le piccole. Scusi, piccole. Questa è Radio 24. No, intanto lo ripeto. No, così, però è importante sapere questa cosa. Cioè, le piccole labbra possono avere anche delle dimensioni, possono diventare enormi di quanto, per esempio? Sì, possono protrudere anche di un paio di centimetri o anche tre, oltre le grandi labbra. Ma questo non è solo io, qualche volta estetica, ho conosciuto delle donne, delle donne ecco, adesso ecco i grandi aneddoti. Ho conosciuto, perché c'è la grande inchiesta e poi i grandi aneddoti, così funziona. Questi ultimi 10 minuti, cari ascoltatori, funzionano così. C'è sempre la grande inchiesta con l'esperto, senza nulla, no, ovviamente lo è davvero, e poi c'è il commento, la storia. Cioè hai una costruzione molto drammaturgica di questa parte qui, tempo, però scusa, importante, non è vero, hai fatto capire bene. Cioè l'aneddoto è questo: io ho conosciuto delle donne con una parte esterna che quasi, come dire, addirittura una protuberanza, una specie di protuberanza fuori, cioè quasi, quasi un pisello, non so come dire, ovviamente, cioè, se non esageriamo, però e questo è un problema per molte donne? È un problema soprattutto perché finché la donna vive la propria sessualità col suo compagno da tanti anni, ovviamente questo non rappresenta un particolare problema, ma nella coppia separata, quando una donna si, fra virgolette, rimette sul mercato, chiamiamola così, chiaramente vive una qualche forma di disagio, un po' come l'uomo che ha il pene piccolo crede di avere le piccole labbra che troppo esagerate, sembra un paradosso, piccole labbra che però escono fuori e diventano quasi un ingombro e possono essere un problema, diciamo, dal perché punto nei canoni estetici della vulva perfetta, cosiddetta, dovrebbero le grandi labbra essere belle turgide, sviluppate e contenere le piccole, che quindi non dovrebbero uscire fuori, come succede in una ragazzina di 18 anni, per intendersi. Col passare dell'età però le piccole, le grandi labbra tendono a svuotarsi, quindi a perdere turgicità, e le piccole labbra tendono a uscire fuori. E poi ovviamente creano problemi anche di sfregamento, quindi c'è un'irritazione durante la però devo dire che c'è una certa perversione a me nell'avere queste piccole labbra che escono fuori, professore. A molti uomini piace, devo dire. Alle donne da lei si presentano anche donne musulmane che vogliono ricostruzione dell'imene? Ma guardi, questa è una cosa che succede soprattutto in altri paesi. Succede qui non è mai capitato una donna musulmana italiana che si è presentata per la ricostruzione dell'imene violato mentre non si potrebbe? Guardi, quello che è capitato purtroppo sono persone che hanno subito magari una violenza o comunque un atto che le ha segnate per molto tempo, poi sono riuscite a trovare un compagno e si vogliono regalare questo intervento come se fosse una rinascita, come ma veramente, se fosse, cioè, donne, a prescindere dalla religione, le capita qualcuno che vuole ricostruirsi l'imene perché ha un nuovo compagno? sono rarissimi i però casi ci sono, di dimene, però ci sono. Sono rari, ci sono e sono soprattutto donne che o per gioco, è uno scherzo, un gioco col compagno, il compagno che è perfettamente sì, consapevole, sì, lo sa perfettamente, sì. Oppure quelle che hanno subito una qualche forma di violenza e devono cancellare psicologicamente e fisicamente sì. I segni di questa violenza. Mamma mia, ma c'è qualcuno che chiede, lei fa anche la rimozione del prepuzio clitorideo se non mi sbaglio, cosa sì. Vuol dire? Succede che ci sono donne che hanno un eccesso di pelle che gli va a circondare il clitoride, che è la zona più sensibile. Eccesso e di quando... pelle intorno al clitoride, esatto. Dunque cosa può provocare quando questo? Può provocare intanto una riduzione della sensibilità. Parenzo, questo è un problema serio, eh? È un problema enorme. E dunque rimuovono questo prepuzio intorno al clitoride. Sì signore, si rimuove con un banale, semplicissimo intervento chirurgico. Benissimo, allora questa è la prima puntata, Parenzo. Parleremo nella seconda puntata, nella settimana sì. che verrà. Fai il trailer adesso sì, sostanzialmente, non il trailer. Coming soon, come sì, si esatto, fa al cinema. Di ecco, perineoplastica. Poi parleremo certo. Di quali sono i canoni estetici della vulva, di restringimento della vagina o di ringiovanimento della vagina stessa. Poi parleremo sì. Anche del possibile potenziamento del punto G e anche di depilazione e squirting. E tutto con ma il professore. È un programma culturale, annuale. Culturale, è un programma annuale. È un vast programma, come bravissimo, si dice. Bravissimo, c'ha De Gaulle. Grazie a professor Littara, ragazzi. Grazie a voi. A lunedì, voi. Ciao. Arrivederci. Ciao. Arrivederci. Arrivederci e come sempre viva la libertà di espressione, vaffanculo quelli che denunciano, quelli che dicono le loro opinioni, libertà d'opinione in tutti i paesi, come Trump, parlare chiaro, fottersene di quelli del politicamente corretto, vaffanculo politicamente corretto, vaffanculo, viva la libertà, viva la libertà. Accadendo sapo come si dice? Come si dice? Cama può sfugare.